Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchese. In primo piano le politiche di immigrazione europee dopo l'aggravamento della situazione in Libia e le previsioni sugli sbarchi di migranti. La Commissione dell'Unione Europea continuerà a sostenere l'Italia se chiederà ulteriore assistenza da Frontex per la Commissione. L'operazione congiunta Triton è intesa per sostenere gli sforzi italiani su loro richieste. Non rimpiazza né sostituisce gli obblighi italiani nel monitoraggio, nella sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Più diplomazia e coinvolgimento di tutti i paesi di confine nel Mediterraneo uniti al rafforzamento della missione. Questa è la posizione di Patrizia Toia, capo delegazione degli eurodeputati del PD, sulla situazione in Libia, su un eventuale intervento militare. Sentiamo. Proprio perché la situazione è una polveriera, penso che prima cosa sia la cautela assoluta. Non è un intervento di forza quello che può, di fronte a una polveriera, essere la prima reazione. Penso che in questo momento la parola e la valutazione debba essere in mano agli organismi maggiormente interessati. Penso al governo, al Parlamento e al coinvolgimento pieno dell'Unione Europea e dell'ONU. Ma l'Unione Europea che cosa può fare? Perché molti lamentano un ritardo, lamentano il fatto che ci sia stata scarsa attenzione da parte dell'Europa. È vero che da parte dell'Europa c'è stato uno scarso investimento politico, di relazioni, di cooperazione con il Mediterraneo. Il Mediterraneo è stato ampiamente sottovalutato dall'insieme dell'Unione Europea, quindi è assolutamente necessario che la priorità, l'ha fatto Matteo Renzi questa richiesta nell'ultima riunione informale del Consiglio informale, certamente la farà nel Consiglio formale. Il Mediterraneo deve diventare, che non è solo la Libia, ma tutto il Mediterraneo, deve diventare la priorità dell'Unione Europea accanto a quella che è stata in questi giorni l'Ucraina, perché è a est e a sud dell'Europa che ci sono tensioni e faglie di conflitto. Oggi si concentra sulla Libia, ma un'azione in Libia va preparata anche lavorando con tutti gli altri paesi che si affacciano sulla sponda del Mediterraneo. Quindi è tutto il Mediterraneo che deve essere assunto nelle priorità dell'agenda. Inizia oggi il countdown di 12 giorni per giungere ad un'intesa che eviti l'uscita della Grecia dall'Eurozona. Corrono inesorabili le lancette che segnano il countdown nella corsa contro il tempo per mantenere la Grecia nell'Eurozona. Il weekend di consultazioni tra governo ellenico e i tecnici dell'ormai ex troica ha dato ottimismo al governo di Atene, anche se il premier ellenico Tsipras chiede tempo, non denaro, per fare le riforme. In un'intervista al settimanale tedesco Stern, Tsipras propone una soluzione win-win, chiede di consentirgli di salvare la Grecia dalla tragedia e di preservare l'unità europea. La scadenza del 28 febbraio, tra soli 12 giorni, in inquieta tutti, a partire dal ministro delle finanze Varoufakis, che non è più così sicuro che i negoziati tra Atene e Bruxelles possano chiudersi prima, anche se lui punta le fiche su un'intesa. Provando a tradurre il nodo negoziale in termini comprensibili, le distanze possono essere meno ampie rispetto alle posizioni di partenza. La Grecia propone un programma ponte di aiuti in attesa di un piano riscritto da capo, mentre l'Europa, Germania in testa, preferirebbe non cambiare le regole del gioco. Una vecchia volpe della politica comunitaria, ora a capo della Commissione, il lussemburghese Juncker, è stato esplicito nell'individuare un 70% di punti del vecchio memorandum che Atene intenderebbe comunque rispettare a partire dalla lotta all'evasione, e un 30% sul quale occorrerà negoziare duramente, soprattutto in tema di privatizzazioni, salari e diritti dei lavoratori. Decine di migliaia di persone ieri sono scese in piazza in diverse città greche, 18.000 nella sola Atene, in manifestazioni anti-austerità. Il presidente della BCE Draghi ha escluso l'ipotesi di un'uscita greca dall'Eurozona. Le lancette intanto continuano inesorabili il loro giro d'orologio. Stasera in programma un Eurogruppo potenzialmente decisivo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24, vi ha parlato Daniele Biacchese. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.